furgoncino con un maxi schermo sul quale scorrono immagini di segregazione e morte di animali e centinaia di persone che lo seguono con striscioni, cartelli e gridando slogan di rifiuto delle violenze compiute nella nostra società contro gli animali. È successo sabato scorso nel centro di Firenze. La lotta contro i macelli e quindi contro gli allevamenti e quindi contro i consumi di carne tipici della nostra società è forse la lotta più avanzata per l'animalismo moderno e sta cominciando a prendere forma e ad uscire allo scoperto. Siamo con Alessandra Galbiati di Oltre la Specie. Alessandra, l'obiettivo di abolire i macelli, a tuo avviso è un obiettivo concreto, praticabile, raggiungibile, vale la pena porselo? Il tempo in cui avverrà questa trasformazione politica storica è imprevedibile, però credo che sia l'unico obiettivo da chiedere, cioè da raggiungere, che nessun animale venga più macellato, quindi di conseguenza allevato, fatto nascere apposta, fatto crescere. Le lotte animaliste più conosciute sono però quelle che hanno riguardato e riguardano la vivisezione, le pellicce, la caccia. Perché il tema degli allevamenti e dei macelli è rimasto in secondo piano? Ma io non credo che sia rimasto in secondo piano, è che sia a volte nelle lotte sociali l'idea che bisogna aggregare più persone, sicuramente il circo, la vivisezione, gli zoo hanno diciamo più nemici che non gli allevamenti, però il problema è che se si pensa a una vera trasformazione dell'idea complessiva, sociale che si ha dell'animale, non si può non partire da quelli che sono gli animali più reificati in assoluto, che sono quelli che sono praticamente produzione industriale, quelli che servono per finire oggetto di cibo e sono i più ignorati. Quindi una vera lotta di liberazione non può prescindere dallo sfruttamento peggiore. Free animals, free animals, free animals, free animals. Damiano, com'è andata allora questa manifestazione? È andata benissimo, io non so quante persone c'erano, ma tantissime, su un tema come i mattatoi non è come farlo su altre cose. È stata una manifestazione davvero antispecista, quindi contraria a ogni razzismo, sessismo, fascismo, specismo. Abbiamo ricordato Clamant Méric, assassinato qualche giorno fa da tre skinheads, aveva 18 anni, è stato ucciso perché era gay, antifascista, antispecista e vegano. Vorrei risottolineare soprattutto la paraescita dell'evento e la morte di Méric come le due cose più importanti. Tanti. Ricordiamo Méric è morto a Parigi nei giorni scorsi in un'aggressione per mano fascista. Le prime notizie non riportavano il tipo della sua militanza. Questo forse però è anche un segnale che l'animalismo esce un po' dai suoi confini tradizionali. Oggi c'è stato un po' uno spartiacque che ha fatto capire che l'antispecismo non è l'animalismo. L'animalismo è un fatto empatico che muove da un sentimento di rispetto e amore verso un animale. L'antispecismo è fondato filosoficamente, parte dalla presa di coscienza che è sbagliato il razzismo perché discrimina sulla base della razza, come lo è il sessismo. È sbagliato anche discriminare in questa maniera specista gli animali. E quindi insomma è importante che l'animalismo e l'antispecismo escano anche da tutte le logiche dove sono state imbrigliate finora, se vogliono veramente arrivare a un risultato concreto per tutti gli esseri senzienti. E in tutto questo non ci può entrare niente che abbia a che fare con le discriminazioni, regimi totalitari o altre discriminazioni su umani o non umani. Vi dobbiamo un aggiornamento sulla vicenda delle volpi sotto minaccia a Prato. Inizialmente la provincia aveva stabilito con una determina dirigenziale la possibilità della caccia fuori periodo delle volpi stesse. Successivamente, anche grazie a un appello promosso da Restiamo Animali WWF, sottoscritto da decine di personalità della cultura e della scienza e da un migliaio di cittadini, l'assessore ha bloccato quella determina, convocato una consulta sulla caccia e lì promesso in qualche modo una nuova delibera con il via libera alla caccia di 100 esemplari. A quel punto è partita una nuova campagna di Restiamo Animali che ha raggiunto ormai le 27.000 firme ed è partito anche un dialogo con l'assessore Antonio Napolitano. La nuova delibera questo punto è ferma per i necessari approfondimenti che includono la nostra proposta avanzata dalla nostra trasmissione insieme con LAC e CABS e che mira a fare di Prato un'esperienza pilota al fianco di altre in realtà già in corso in Italia con interventi ambientali che escludano la caccia alla volpe. La nostra proposta prevede fra le altre cose lo stop all'immissione di selvaggina negli ambienti naturali e l'avviamento di un progetto generale di gestione dell'ambiente faunistico in una logica cruelty free con gli esperti del ramo. Vi terremo aggiornati su questa vicenda che ci sta molto a cuore. Infine segnaliamo un appuntamento che riguarda la Fattoria della Pace Ipoasi, che nella sua nuova sede di San Piero a Grado in provincia di Pisa, domenica 23 giugno, organizza una giornata con Aida Vittoria Eltanin, autrice del libro La dieta di Eva. Il programma prevede un pranzo vegan alle ore 13 e poi alle 15 un quiz a premi dal titolo I miti sull'alimentazione vegana e sulla frutta. A seguire una visita del rifugio di tutti gli animali che sono ospiti. Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione che può essere fatta a questo indirizzo mail eventi@ipoasi.org. Tutte le informazioni sul sito ipoasi.org. Stop.